No, deve essere commesso un giratto, lo so che in capo mi è andato, mi ha fatto vedere il capo in giro. Stamattina ho visto Antonio, Ma chi è Antonio? Antonio, bombolino. Se l'ho chiamato a portarmi la bombola, per forza l'ho visto, mica è trasparente, già ebbe domani via. Già vedo anch'io, l'ho visto da poco anch'io. Ehi, gli ho fatto vedere tutti i baracchini nascosti nell'armadio che c'ho, capito? Ma la carabicina, gli salienti della salute. E intanto sono andati a di su Brucchio, che va più i baracchini nascosti nell'armadio. E io mai avuto baracchini dentro l'armadio. Quello che ho avuto era sempre in esposizione qua, e boh. Un attimino, rimango in correccio, secondo. Il cappa. Sei un poco di cazzate. Però ho visto la gente cattiva, va e parla a vanvera. Almeno dice se la verità, ma dicono cazzate. Cari dai, grazie. Oh, yeah. Non conoscono l'undicesimo comandamento. Forse il cazzo di giove. Evidentemente no. Visto lei, Antù, lo smitter come l'ho fatto del 3009, che gli ho messo il led bianco, Sì, sì, l'ho visto. Cazzo, uno spettacolo, Oh, yeah. Algo ci dice la canzone. Lasciali perdere Natale, tanto ti va o San Gomaro ti va con il saliente, me. Cioè, sempre roba le scatole, con cose che non vere pure. Gianni! Eccomi, sono al computer, sto cercando roba. Ma tu ne hai basi karaoke già? No. Anni fa me l'aveva chiesto un amico, avevo scaricato il programma con le basi, ma mai casinato tutto e niente, non ci ho bucato tutto, bacca di dai. Ti sei incasinato tutto? No, mi aveva chiesto la cortesia, un favore, una persona che conoscevo di scaricargli un po' di roba col programma, che mi affittava la strumentazione per fare qualche serata, poi mi è incasinato il PC e mi ha già bugato tutto. E non mi sei più offende, se no te l'affittavo io. No, non mi ha mai esaltato, mi ha detto. A dirti la verità, no, non sono mai stato un grande appassionato. Sì, poi se capitava in giro con gli amici, alle ore di ciofra, mi mettevo a cantare canzoni e cartoni animati, o dei telefilm, Furia, Sandokan, Cacamo e Avvigliao, che figo di Russia, mi avevi. Cercavo qualcuno che mi dava un po' di base, pensavo che tu ce li avessi. No, Anto, te l'ho detto, ho rimosso tutto, ma è passato già un bel po' di tempo. Prendevi l'affitto la strumentazione tu per cantare? No, non ti ho capito niente, cos'è? Ma prendevi in affitto tu la strumentazione per cantare? No, vabbè, io ho la mia attrezzatura, quando andavo a suonare nei locali con i giradischi e altre cose, c'ho la mia amplificazione personale. Ah, capirai. Beh, tutta rimunita, tutta rimunita è messa da parte. Ah, non è a capra, puoi andare. Quando capita, quando capiterà, molto volentieri, però per adesso non si batte chiodo. Io ci avrò un po' di anni con la roba, anche le casse. Ma suonano veramente bene le mie vecchie GBL, ecco il volgo Zoccai. Già lo so, già. Chi è? Gianfranco, mi, buonasera. Un po' bassino, dite la verità, non come al tuo solito. Capo, adesso è migliorato? Ma, impercettibile, dite la verità, Capo, dai. C'è Antonio e Natalino, forse ancora in ascolto. Hai sentito? Ecco. Ambulanza, vediamo se c'è Natalino, avanti. Negativo, non c'è. Probabilmente Antonio non lo ascolto. Non lo ascolto per niente, ascolto solo a te. Caspita, bubu. Antonio, lo senti Franco in sosso? Oh, ciao Franco, c'ho un po' chi batte, ciò. Tanto che lo sento. Adesso che ho spento la cosa, non c'ho più qua il REM, lo sento. Franco! Aspetta. Attento Franco, il sorso. Antonio, mi sa che Franco non ti copia. No, ce l'ho proprio io, ma devo salire un po' di parte. Se si assacca un po' di parte, mi si spegne il computer. Capito? Ha problemi il computer poi. Vi siete parlati sopra, dai. Mi è sembrato di capire che Franco ha detto che non ti ascolta, tu. A casa già mi ascolta, Puglia. Non è il QTH ufficiale, mi fra. Me lo immagino, sta lavorando, me lo immagino che non è il QTH, perché dal suo QTH l'ascolto benissimo. Aspetta, faccio una prova, guarda. Guarda se mi senti, Franco. Attento, Franco di sorso. Ma non va proprio. Direttamente luce a 50 watt, io non ce li ho, capito? Vabbè. Pazienza, dai, non riuscite a... Non riuscite a accoppiarvi? Boh, c'era anche Natalino, forse è andata a cenare, boh. Io non posso attaccare, perché questo baricchio non mi va. Guarda che ho andato all'alimentatore a parte. Se avrei attaccato 747 vedi che mi avrebbe sentito come. A voglia. Voglia. Dai ragazzi, io mi sposto, devo fare una cosa. Dai, al casomai vi accendo dopo. Vediamo un po', dai ragazzi, ci aggiorniamo più tardi magari, ok? Dai, per adesso buona serata, casomai ci aggiorniamo dopo, a tutti quanti, ascoltoni e non, ciao. E pure un giorno fammi sentire quelle GPL che la voglio sentire. Ciao Gian, ci sentiamo, dai, io sono rientrato, Franco, va. Oh, ciao Gianni. Ciao Fra, e allora? E allora me, Fenoca, mi sono bruciato fa 5 minuti nel bordo e ho venuto un travaglio pure. Però mi sono staccato e mi sono detto va nel bordo 5 minuti. No, io mi sono proprio sdraiato, letteralmente sdraiato, perché avevo un po' di cappuccino, deve essere che ho messo male, girato male la testa e cose, mi è venuto questo cappuccino e dall'artrosi cervicale. Può essere, magari controllate la pressione, può essere qualsiasi cosa. No, ma adesso mi è passato, meno male. Era la postura proprio come ero coricato sicuramente. Come mi sono girato, tutto il sangue è andato in capo. A volte lo fa anche quando ti inchini. Abbiamo preso, ma lo fa parecchie volte a me. Infatti la prima cosa che faccio è mi misuro la pressione, a vedere com'è. No, ma io la pressione ce l'ho abbastanza, sempre regolare ce l'ho. Vabbè, io sto prendendo una pastiglia sto prendendo per la pressione. Pure io? A questa pastiglia ce l'avevo battuto, che per carità. Prendo Triatec io. No, quella me l'aveva tolta il medico perché mi stava facendo male. E allora me l'ha tolta e mi ha dato fatto un altro gruppo mio là. In che senso male? Diciamo che ero sempre a mal di testa. No, a me la verità no, non mi fa nulla. No, a me mi fa tenere la pressione, me la fa tenere giusta, capito? Me la rende tranquilla. Sono andato anche da poco dal cardiologo, ho fatto l'elettrocardiogramma, mi ha misurato la pressione. Mi ha detto, cosa prende i passi di dottoria? Te che continui con quella lì che va bene. Vabbè. Se ti sta facendo male glielo devi dire, tu glielo devi dire anche. Perché io quando sono andato gli ho detto, guardi, io da quando ho preso questa pastiglia, la stavo prendendo all'inizio, mi sembra che era neanche 2 settimane. E poi sono andato all'autorezza e gli ho detto, guardi, da quando ho preso questa pastiglia sono sempre male di testa. La cosa me l'ha cambiata. Me l'ha cambiata, non mi è giusto più di un regalo. Ma non è che hanno sbagliato, hanno dato il Viagra, no? Se no avrebbe fatto effetto diversamente. No, perché so che fa mal di testa, però così mi hanno detto, boh, non lo so se è vero. No, triate. Infatti quella lì non la prendo più da qualche anno. Vabbè, se non fa bene ci sono persone magari che riescono a percepirle, c'è altre persone che non ce la fanno. Il fisico non accetta, capito? Infatti è così. Purtroppo queste pastiglie sono un casino. Già andiamo avanti, l'importante è andare avanti. Lo so, ma io siamo i ribassi di Ghibizzo, cazzo, peggio della farmacia, so. Lo so, mi ascolti, io. Sì che ti ascolto. Adesso devi andare lì a Sacaville per vedere, insomma, una vista, per vedere com'è il tio. Per che cosa? Per il diabete? No, la pressione. Lì faccio comparazione, cardiogramma. No, perché so che hanno messo anche la diabetologia lì ed è... C'è un amico e mi ha detto, guarda già, è meglio lì. Perché andavo là, non trovavo parcheggio, eccetera, eccetera, perché era ancora a San Pietro. Adesso l'hanno trasferita via Rizzido, lo sai. Io non c'ero più in Sassa. Io ero ad Alghero. Adesso il mio medico se ne è andato. Sì, se ne è andato. E non conosco neanche ancora la... Adesso non c'è rimanere. Se ci posso, no, mi rimango a pedale. Se no, prima vado lì. E a Sassa c'è il centro diabetico, tu devi andare a Rina. Come ti conviene? Sassa lì non mi hanno accettato perché non c'è posto. Ce ne sono tanti, a Sassa ce ne sono tanti. Io adesso devo andare verso tra luglio e agosto, devo andare a fare un'altra visita, però non mi sto comportando molto bene. Sì, una volta al giorno si gappa, tanto, da voi, non muori di rap e muori di drone. Quello c'è, quello di rap passa un po' una vista, sta cattando di più a Ehi, ma tu quando sai che devi andare a fare la vista, non è bevi, scusa, è una settimana prima comincia a non bere, così almeno. Però ci sono degli esami che da 6 mesi a questa parte riescono a scoprirti se hai fatto tutto regolare o no, lo sai. E infatti non so dire, non vale niente, quello allora per fuggire al medico, non sto lavorando, al medico aziendale, allora devi fuggire per un paio di giorni prima, non vedi via con veterinari, ma no, mi piace la moto alta, non è che passo questo. E poi ci freghiamo noi, no, non è che freghiamo a loro, no. Quando facciamo queste cose ci freghiamo noi per infondirli, non a loro. Loro non gliene frega niente. Infatti a loro non frega niente, però loro la prima cosa che fa prendono e dico non idoneo a quella passione e potranno fare un lavoro di forma. Sì, quello già è vero, ma noi di questi problemi adesso non ne abbiamo più. Io sono di 4 anni, 4 anni, 4 mesi è proprio al primo e non ho più problemi. Tu sei andato prima di Marco, vero? Allora Marco è andato fuori prima, lui non riusciva a camminare, allora dell'azienda, non l'ha fatto idoneo, addirittura lui è ancora un giovane, allora E poi ci è andato via dopo di lui, ho capito. Ma lui è andato prima, cioè, con la minima è andato. Ma lui sto da giù e come sei, o come sei, non lo so, non è ciò, e non è ciò ancora, mi sembra. Ancora sembra che gli stanno dando un segno, perché a lui sino a 60 anni non glielo danno ciò. E non è detto. Siccome lui è invalido, come me, è invalido, però lui non c'ha l'80% come ce l'ho io. Io ho l'80%, me lo danno 5 anni, me lo danno 5 anni prima la pensione, capito? A lui non lo so se c'è questo scivolo, perché lui mi pare che ne aveva una abbassata addirittura quando è andato a fare la visita. Esatto, come mi ha detto, che a me l'ha detto che gli era una abbassata. Gli ho detto io, quando mi ha detto, scatto c'è che balla, dove? Non lo pesca, che non riesce neanche a mettere. Io, quando avevo lavorato con me, io non lo capirio, non riusciva neanche a camminare, a mettere il palazzo in mangio. Ma che se non lo fede? Non so, gli si gonfiava un bel piede, e si faceva viola, buh. Poi il collo del piede non lo piega. Non piega, no, infatti io... Ma non lo volete che non gli ho dato la pensione che in modo che non si affida la sedia, c'è tanti di quello che vuoi, c'è tanti di uno, mette fiero, ma vedete che c'è tanto che cammina, ma se c'è il casino, quando sono, noi tu. Vabbè, più o meno è come è successo a me, dai, che praticamente a me c'è un'ulcera diabetica sotto al piede, ho tipo un vulcano, e si vedeva quasi rosso, che ho tenuto per 5 anni, i medici non ce l'hanno mai fatta, ho passato 5-6 medici, specialisti, eccetera, eccetera, non ce l'hanno mai fatta, ce l'ha fatta un'amica che con l'oro colloidale me l'ha fatto passare in un mese, in un mese non c'avevo più nulla. Come ci vuoi fare? Ma io non devo essere uscire quest'anno, devo uscire a Mazzacca e Zante, devo uscire tanto, c'è riuscito una lettera, non fa riuscito andarmi a trovare come mi ha mandato la lettera che può avere i cazzo di andare in pensione, vado a casa, dammi dentro, non vorrà che sia lì, io sono una domanda proprio via. E che tipo di legge era, Ofra? La pesce. Ah, sì, l'ape, sì. Dove si sente anche. Ma davano di meno, no? No. Allora, sono... Era anche mi sembra di crepa. Vabbè, a me, io... C'era uno che dovevi pagare. Poi l'altro non so cosa era. Io ho preso quella normale. E la copia di ho dopo 4 anni di ricordo. E mi hanno accettato. Cioè, mi hanno accettato a prendere 4 posto per lavorare. Figurati. Non va bene. Non andava bene. Va benissimo, dai. No, ma anche io non mi posso lamentare, una buona pensione anch'io. Adesso ho l'assegno, però essendo all'80% e mi hanno conteggiato anche i contributi, sto bene, dai. Però adesso ho fatto la domanda per l'anzianità, per l'anzianità, e adesso ad agosto, dal primo di agosto, mi danno la pensione di anzianità. Chi hai? Chi hai? Fai 67 anni? No, te l'ho spiegato, io ho 5 anni di scivolo, capito? Sì, allora mi fanno la domanda di chi ha detto che io dalla persona perché non era poi 7 anni, ma prima di marzo ho fatto la domanda, me l'hanno fatto quella pensione, sì, ma io la domanda l'ho già fatta, mi devono chiamare solo a fare la visita e basta. Sì, perché a me mi... praticamente essendo invalido penso che mi calcolino, cioè senza pensare, perché ho parlato con un amico mio che lavora all'INPS e mi ha detto che mi spettano come invalidità mi pare 200 euro all'anno. La domanda di vogliamo fare che si regola ciò? No, quella lì non la posso fare, malgrado adesso si è beccata anche all'altra gamba, mi dovrò operare anche a quella, perché già una parte avevo messo la protesi, adesso l'altra gamba, visto tirare l'ospedale, fendi che si travagli così, ma ci facciando tutti i russi. C'è molta gente che paura di vediamo fino alla No. Ah, Graziano, Gufo, non so se l'hai mai sentito, le l'hanno presa. Bene, io c'ho mio cognato, c'è la parte, e va, sta, sì, è così. Vabbè, io non lo non so se lui che non l'abbia accettato il fatto di andare 2 anni, però so che non ha più la patente perché era al 100%, così mi ha detto, così disobbedizzato, non lo so, però se in effetti chi è dall'hotel e cose, c'è un ragazzo che veniva da noi a fare la spesa e faceva tutto lui, si piegava la sedia, se la metteva dentro la macchina, si sedeva nel sedile e partiva, faceva tutto da solo. C'è gente che diciamo che hanno le gambe con quelli che ingrassano, mia che grassa e non riesce neanche a muoversi, mai vedere le sedie a rotelle. No, questo ragazzo qua è molto agile e poi acquistano molta forza nelle braccia, capito? Quello che non c'hanno nelle gambe lo acquistano nelle braccia, per cui si tira su con le braccia, se ne va sul sedile, quando è seduto prende e piega la sedia e la mette dentro. È una cosa allucinante, infatti una volta stava prendendo l'acqua ed era in alto, no? E non lo stavo prendendo io, lui mi ha detto no, grazie della gentilezza, però se mi togli anche questo movimento mi è fregato, cioè devo fare il movimento almeno nelle braccia, così mi ha detto, sono rimasto anche male. Tu hai fatto ospitalità, per me l'avrei fatto anche io, sì, però quelle che non c'ho ospitalità, che non ho l'aria qua da dare, con bene, fa bene, poi se ero delle cose, escono le ruote, baionetta, schiacci in cielo, ne escono, e ci mette le ruote, ci mette le ruote, diventa più leggero. Sì, sono molto più leggere, sì. Mai a conoscerle, ma sono più leggere, sì. Ho visto che adesso le fanno molto, prima erano i carri armati. Cosa c'ha? Incidenti a voi? No, non con quella carta c'è. No, ma dico, perché il sedia a rotelle, incidenti a voi? No, c'ha quella malattia, la... Oh, via. Anche un amico mio d'estate ha cominciato a sudare, stava guidando, ha cominciato a sudare, dice ma c'è tutto questo caldo, ha aperto i finestrini, tutto quanto, in macchina, poi si stava sentendo male, si è fermato, ha chiamato il fratello, l'ha portato all'ospedale e la zia che era dottoressa gli ha fatto fare subito tutte le analisi, tutto quanto, e l'altro ha fatto la sclerosi multipla, così, lui già domani. Lui ha lavorato a Torino, stava lavorando in fabbrica, c'era la malattia, però era bene, allora vai a lavorare, poi cominciamo a arrancare, poi via, allora lì poi alla fine l'azienda a me, adesso vuole contare, e l'azienda la sta, poi è andato in pensione, ed è ragazzo, non è grande, c'ha 6 anni meno di me, e gli altri 9 anni che fu, e di nare. Lo so, fra, ma tu ti saresti voluto così andare in pensione, no, io preferisco non avere altre malattie e prendere di meno e cose, però la verità solo che lui non le poteva fare a meno, lo so che prende i soldi, però purtroppo è così. Perché a volte magari è stato male Marco. Vabbè. Purtroppo. Purtroppo è successo un brutto incidente. Sono i dottori che conoscono sicuramente, gli fanno certificati falsi, normale, no? Se no come farebbero? Lo so, è così, purtroppo anche la prima domanda che fai, solitamente in pensione te la bocciano sempre. La prima me l'hanno bocciata a me perché mi hanno detto che l'ho fatta troppo anticipata, capito? L'ho fatta 4-5 mesi prima, era troppo anticipata, adesso l'ho fatta dopo 3 mesi e adesso mi daranno la risposta. Mi hanno detto che praticamente la cosa la la domanda è stata accettata perché l'invalidità è affermata, però per quanto riguarda come si dice, la pensione di vecchiaia, praticamente devo aspettare al 1° di agosto. Ma intanto te la passano automaticamente, se tu già la vuoi, te la passano automaticamente come il bilancio. Non lo so, io non so se devo fare la visita o che cosa, comunque la domanda l'ho fatta, con tutta la documentazione, eccetera, eccetera, l'SS3, l'ho presentato, tutto. Vabbè, ma se devi fare qualche visita, ti mando una lettera, sto dicendo che se non presenti, se non mandi niente, perché cosa automaticamente? Non lo so, io pensavo che dovessi fare visita, ma può darsi che sia come dici tu, perché solitamente dopo 15 giorni ti rispondono, invece a me sono passati quasi un mese e non mi hanno ancora risposto, quindi infatti volevo andare al CAF a chiedere, perché non ho ricevuto nessuna risposta. Se tu c'hai un amico da chiedere a lui, poi mi ha detto che ti vede un po'. E infatti glielo devo dire, come lo vedo glielo dico. Glielo chiedo, a vedere se sa qualcosa, perché mi sembra un po' strano. Dopo un mese l'ho fatta al 3 la domanda, l'ho fatta, partita al 3 perché me l'ha fatta davanti, e adesso è passato più di un mese. Diglielo. Ma tu ti fai notare anche a chiedilo, c'è anche l'opera di loggia che si va. Ecco. Avanti Claudio. Ma cosa Claudio? Mi sembrava il Claudio. Lui che poi ci ha offendito. E beh, Antonino. Ciao Gianni, ciao Franco. Mi sto mangiando una bella piannetta che. Io me l'ho mangiata quando era il compleanno di ieri, ma avanti. Ma domani c'è il compleanno di mia figlia. Doppia festa, va bene. E non mangiare dolci. No, infatti sto mangiando l'alce, vorrò mangiare domani. Domani c'è la piccio. Io invece ho mangiato sindria oggi. C'era la sindria bella fresca. Beh, la sindria sai, è tutta acqua, poco zucchero. 97% di acqua, 3% di zucchero. Avanti Franco. Capo, ciao Antonino, buonasera. No, sto mangiando la viennetta, capito? C'è una cosa squisita, ma è buona, fra. Hai capito il goloso, eh? Vabbè, ho iniziato buone. Adesso invece guarda, mi aiutano due secondi, ma la prima prendo una bella birra. Gappa, pure quella fa male. Lo so, però intanto ci vuole. Ehi, no, sto scherzando, già lo vedi tu, già devi va. Anch'io quando voglio di una cosa me la bisio. Poi... Allora, tu lì, che te mi conta? Domani ce l'ho da mamma di Grazia, a finire quel lavoro. Niente, c'è l'impianto, già non te lo conosci, perché tu quella casa già le conosci. Tutte scatole tonde, devo rompere piano piano e metterle a 503 in cassata col gesso scaiola e metto due prese in un interruttore. Perché scatola tonda già è un casino veramente. Ho dovuto fare l'impianto esterno con la canaletta da un centimetro proprio, si vede anche poco, per la forina, perché c'ha lì quei cibi piombati degli anni che fruscia, c'è la gara addirittura da Giappone. E quindi se tocco 40 sulla derivazione sono spaventato, tanto grazie, sai, Vattimina, guardami, sei associata a Buretta, se tocco qua guai. E poi il casino è che se tu tocchi qualcosa e cerchi di togliere qualcosa e mettere il cavo nuovo, va a finire che poi non ti si interrompa qualche filo, perché sono quelli che si mettono più avanti, si spettano subito, sono molto delicati. E va a finire che poi entra i cavi nuovi e non entrano più, perché ci hanno messo le cannucce proprio piccole, capito? E dovevi fare tutte le tracce, roba tutta la casa, cosa per fare l'impianto, grazie di Dio, no, te l'ho fatta esterna e poco. No, la mia suocera sono quadrate, perché me lo ricordo che una volta le ho fatto io, se l'ha staccato un filo, le ho aperte, sono quadrate, ma probabilmente le ha cambiate lì, capito, ci ha fatto rifare l'impianto. Invece non mi piacciono, tutte scatola tonda, Sant'Antone. E poi con quelle rettangolari praticamente c'ha due viti e blocca, è un amore. La scatola è tonda, hanno il vizio che poi si muovono, non ha più l'aderenza che deve avere, capito? No, è uno schifo. Tony, come mi senti con questo apparato? Questo è il 3009. Mi sembra un po' nasino. Nasino? Vabbè, sono un po' raffreddato. Allora è perfetto. che ho conosciuto Saverio stasera, e ho preso l'antenna da Ringo. No, l'ho capito, è conosciuto Saverio? E gli ho comprato l'antenna, la Ringo. La Ringo da chi? Da Saverio. Ah, la Ringo ti ha preso. Poi c'è l'altra impacchettata che mi è arrivata da fuori. Ne ho due adesso. E la Ringo è un po' gusci come antenna, non è che sia delle migliori. E infatti con la Ringo ci parlo. E con la salvo con la portante, beh andata. non bene la tua. Allora, quella che c'ho adesso no. Io sto usando il TM1000. È stata riparata 10 volte questa antenna. E che mi ha regalato, lo sapevo già che era, non te ne così mi. E ho peccato perché la moto al 5, mi hai messa male. E quindi me ne sono ordinato uno da fuori, buona, sono ancora in scatolata, impacchettata. E più senza mi ha preso un'altra così andante, tanto fare due passaggi e buco. Quale ti è arrivata da fuori? Che antenna hai preso, Tony? Non si dice. Picca, su tutti questi visti. E io. Se prego, però mi si permette la portata. Con la direttiva? No. Con un kilowatt sotto, Quando tutte le parti arriverà a fotoscala sono io. Andava bene. Dalle buone prospettive per il futuro. Dai, che non le metto portata, la me la faccio. Mi sente un po' importante. Io sono un po' qua, un po' là, lavori qua, lavori là. Ma giocato una giornata oggi, aveva la maglietta triccia triccia. Tanto me lo immagino cosa hai comprato, come quella di Franco te l'hai presa. No, proprio quella no. Non è quella? No, perché costa poco e massimo può reggere 1000 watt, io voglio molto di più, 2000, meno 3000. E allora hai preso la Superlet come la mia. Toni. La Grazioli. Cos'è, una 5 ottavi? Yes. La Sirio, la Grazioli. Cosa esce di come antenna adesso? La Superlet, mi hai detto di no. E vabbè, non se lo vedremo, da come esce. Cappa. Allora, non ne fanno più, però questo c'è bene, magazzino, scatolata, nuova roba, è la veduta, un amato va uno. Cazza, e allora è come la mia, la mia è come l'amato va uno. Un amato va uno, l'altro è la sua facendo. Ho capito, ma è la struttura è la stessa, capito, cioè sono a quattro radiali, e vabbè, forse la mia è migliore dell'amato va uno, perché c'è anche tutta la parte in acciaio sotto. Ma, è la sua migliore, vabbè. Ce la corriamo, dai. Io sto dicendo come struttura è fatta meglio. Io la Mantova l'ho avuta, lo so, si arrugginisce sempre sotto dove si attacca il piede, eccetera. Quello è tutto in acciaio da me. Io l'ho avuto la Mantova a tempo dietro, 10 anni non si è mai arrugginito, chissà perché. Mi ho messo il grasso e è andato localizzato, non si è mai arrugginito, sempre nuovo. Antoni, dimmi fra. Così si chiamano dalla Mantova Turbo, si arrugginiva al piattello di sotto e invece niente. Io l'ho scesa l'anno scorso e c'era l'apparecchio ed era lucido lucido. Adesso domani la devo riscendere, la prenda perché c'è un stazionario e le da sotto che è lucido lo stesso. E molta gente dice quello si arrugginisce e poi si sbuca. Ma io non è che lo dico, mi è successo, vabbè ce l'avevo 12 anni l'antenna sul tetto, mi è successo fra, ce l'avevo tutto ruggito, l'ho cambiato, l'ho tutta rifatta nuovo con Fabrizio, l'abbiamo cambiato quel pezzo, l'abbiamo messo nuovo. Capo, sì, ma sai perché io mi stavo saltando tutta una cosa, di verniciare quel, poi ho detto no, poi non funziona. Ho già praticamente, deve essere tu avuto fortuna, però succede, nelle Mantova 5 specialmente, nelle turbo specialmente, succede, entra acqua eccetera, però non è detto che altri ti lo faccia, magari la posizione che hai tu va meglio. Oh, oh, oh, oh. Sempre in 11 metri sui canali alti e allora in radiatoriale ha detto bande, allora dei canali, no bande, uno è bande, nel senso canali. Sì, ma è normale, fra, è normale, quando se a te ti salgono, quando sali di canale, no, per dire sul 45, sul 55, sul 60, sull'80, devi leggermente abbassare la spirale. Sì, infatti domani la devo scendere giù, la tempo poi per la morte, perché lavora al contrario, ho capito, se hai stazionale nei canali alti devi abbassare, se hai stazionale nei canali bassi devi sollevarla. Sì, no, fatto dalla 26, fate non con le stazionali. Sì, va bene, non problema, vai già. Ehi, stavamo dicendo che praticamente la Mantova ha il difetto, la Mantova 5, che è il piattello dove si attacca il PL e si arrugginisce dopo un po' di anni. Infatti io l'avevo cambiato con Fabrizio perché era tutto quanto rugginoso, così ha fatto l'Altalino, così ha fatto altra gente. Franco sta dicendo che a lui non gli è mai successo, però magari lui è fortunato. No, a me mi è successo con la Mantova Turbo già, con la Mantova Turbo il piattello, mentre con la Mantova 5, la Mantova 1, che questa è la terza Mantova 1 che io ho, non mi è mai successo, la verità. Ah, ma magari è quello, però io c'avevo la Mantova 5 e è successo con la Mantova 5, non c'avevo la Turbo, io c'avevo la 5, ce l'avevo 12 anni però, da intendere quello. E anche io ce l'avevo più di 10 anni la Mantova 5, poi ho comprato la Mantova 1, l'avevo portata in via Pascoli e quando l'ho staccata, poi quella lì l'ho lasciata un altro paio d'anni e l'ho rimessa nuova, ed è sempre questa qua, la Mantova 1, ho capito, non ha mai creato problemi. Ogra! Ehi, dimmi. Sì, ma la Mantova 1 non ce l'ha il pitello che c'ha la Mantova 1? No, infatti, non capisco Gianni se sta confondendo, non ne ha piattello già, tu forse hai rifatto il mozzo, quel mozzo dove entrano i radiali. No, io avevo la 5, non la 1, premetto. Pensavo che forse la struttura fosse uguale, non lo so, se non ce l'ha allora è un'altra cosa, basta, come non detto. Pensavo che fosse uguale alla 5 e alla Turbo. No, la 5 e la 1 sono uguali come mozzo, c'è un radiale in più, capito, un buco in più c'ha il mozzo, mentre la Mantova Turbo c'ha il piattello, quel piattello a me mi aveva creato problemi. Eppure a me. Mi si è fradicato. Ne ha giocato delle voci di Sant'Enna. Mi avete. Sì, ma la Mantova Turbo però nata lì, non la Mantova 1, la Mantova 5. Ehi, lo so, il piattello ce l'ha la Mantova Turbo ce l'ha. A me mi si arrugginiva, lo pulivo bene, con la moletta, tutto. Oh! Mi si è praticato di ridurre e si era giurampata a Rabbini. Avanti Torino. Torino, ci sei? Sì, c'è anche Torino, l'ho sentito. Buonasera a tutti comunque. Eccomi qua, di nuovo, ero in cucina. Ti ho messo tutto a posto, il gelato già mangiato, tutto a posto. Ciao Claudio. Ciao Tony, buonasera anche a te. Sì, è un difetto comunque già quello, è un difetto della Mantova Turbo, niente di che. Vabbè, allora meglio così, là. Io pensavo che la struttura fosse uguale per tutti e tre i tipi di antenna delle Mantova. No? È una buona antenna, è una buonissima antenna, però c'è questo problema qua, capito? Non so perché. Vabbè. Oh, frate, tornavamo bene con gli AISO, sì? Sì, dovresti essere intorno al 9, a 9 dovresti essere, che sto usando gas. Ehi, anche tu, no, io sto usando l'9.20 e l'AISO, sì, 9 è pieno. Avanti, Tony, che sei l'ultimo che ha parlato, vai, riprendi. No, prima stavo ascoltando, ma ho mangiato bel gelato a Viennetta. Un pezzettino e boh, insomma, me la sono gustato con tutto il mio piacere, che avevo la voglia di mangiare gelato, che io mi sono fatto il caffè, però avevo voglia di caffè. E vabbè, ci ho fatto una scorta qua di gelati, perché avevo il frigge, lo scompartimento dei gelati era vuoto, tutto il resto, cioè non ci manca niente, sia nel pozzetto che anche nel frigo freezer, quindi. Ma mancano solo i gelati, mi danno due giù, se no non mi piace, mi sono uscito, ho fatto la provvista. Bene, niente, stavo di antenne, quindi niente, c'è quella Mantova 5 che è da ricovero. Me l'ha data già che era messa male e quindi sto lavorando con un DM1000 proprio per addrezzare la pochettina, se no manco uscivo. Pensa un po', ho oltre 3 stazionari. Ma in compenso adesso già ho 2 antenne, quindi una semi nuova e l'altra nuova ancora scatolata. E basta mettere la nuova l'antenna, cosa? Tanto se è andata oramai non serve più a niente. Avanti Natalia. E io devo chiudere, là, ci sentiamo alle prossime, ciao a tutti. Ciao Natalia. Ciao Natalia, ci sentiamo. Avanti Fra. Ecco, ciao Natalia, un po' guardate. Niente, già. La mandava uno, la mandava 5, erano uguali. Come ha detto Claudio, c'aveva solo un radiale, che uno aveva 4 radiali, uno. Mentre la mandava tutto, c'era il piatello che aggancia i radiali. No, io non sto parlando di quello, sto parlando dove si avvita il PL. Quello lì mi si è tutta arrugginita, me l'ho dovuto togliere e rifare a nuovo insieme a Fabrizio. L'abbiamo fatto tutto nuovo, l'abbiamo tutta ripristinata con l'antenna lì, gli ha messo il cavo interno più grosso per ricevere, per mettere più watt. Insomma, è stata tutta quanta revisionata, i radiali tutti nuovi, quando l'abbiamo piazzata sembrava nuova. Ce l'ho io quel moto già, ce l'ho io. Con Roberto abbiamo rifatto tutti gli attacchi nuovi, con le boccole nuove del piantone, è nuova, io ce l'ho quella lì, c'ho tutti gli elementi, un'altra Mantova, anziché usare il piantone quello che era andato in corto, uso quello tuo, capito, ce l'ho sempre quella. Ma quello lì, vabbè, uno, quello che abbiamo cambiato, se fosse stato buono quello avrei avuto l'antenna quella lì ancora, invece non andava bene, era, se l'avevano dato perché c'era qualcosa di che non andava. Già, è nuovo, c'è anche quello, sai cos'è che non va lì? Hanno sbagliato il collegamento del connettore, o si è staccato il filo che hanno saldato al connettore, bisogna riaprirlo. Perdeci un po' di tempo, mi saldavo, è nuovo quel piantone, nuovissimo, lo so, io te l'avevo procurato proprio per, invece non andava, cosa avete voi, è andata male, però già ce l'ho io, i pezzi della Mantova ce l'ho, e quello tuo ce l'ho ancora, avanti Tonino. Capo, io so solo che quando scende giù questa antenna, la vostra 1020, e se la piglia luce, tanto, c'ha solo delle diare buone, mi sa, e qualche pezzo centrale, ma neanche dove ci appoggia i radiali è buono, sono pari magnate lo zarrone che ha la calendai, chi me l'ha data non so cosa le ha fatto, ma la metà di tutto è un peccato se la vederla così, vabbè dai, l'importante è che posso modulare per adesso. Recupera l'alluminio, non buttare niente Tony, il radiale centrale non lo buttare, se si può sempre costruire qualcosa, qualche verticale. Vabbè, la metterò una parte della casetta che è degli attrezzi, quella verde che ti ho mandato una foto, la metterò là dentro. Comunque gli attrezzi miei sono aumentati, Ocla, non so più dove metterli. Vabbè, ma sempre, vedi, se qualcosa ce l'hai, non va a chiedere niente a nessuno. Vabbè, normale, forse c'è quella casetta, quindi i pezzi li metti lì, già va bene. Avanti, Fra. Ecco, dai. Oh, già ci sentiamo, perché è arrivata mia moglie, è arrivata... ci sentiamo nei prossimi. Ciao Gianni, ciao Claudio e ciao Tonino. Bene, Fra. Riprendo io là, ciao Franco, ci sentiamo con QRT, avanti a chi tocca. Ciao Franco, buon QRT, ci sentiamo. Claudio, ci sei. C'è un casino, la madonna, cazzo, mia propagazione, che bello. Siete tutti al limite, tranne Gianni, però riesco a sentirvi, dai. Ciao Fra, alle prossime, ci riascoltiamo, vai già. Ciao, la Cheocini. Ehi, comari, male, buonasera. Ciao Gi. Buonasera a tutti. Claudio. Ciao Gi. Buonasera, ben ascoltato. Come stai? Tutto bene? Io sono tutto stanco, però vado tutto bene. Non più di stare qua io. Ehi, oia. C'ho la forza di bustini, io non ce la faccio più a stare in piedi. Dai, vabbè, pazienza. Poi tu con quel lavoro che fai, mamma mia. Tra un gas e lo freddo è un bel casino. Avanti, Tony, per saluti a Eugenio. Arriva un po', lo vedo porretta qua. Ciao Eugenio. mi ha detto, avanti già. E io, non mi fa vedere i dolori che non riesco più a muovere la gamba io da quanto mi fa male. Purtroppo mi dovrò operare anche all'altra adesso. Sì, già, io sto facendo la cura per l'artrite. Tutte e due ginocchia gonfie, poi non sono stato bene in questi giorni, capogiro, proprio, vabbè, di più ne ha più una metà, pazienza. E allora Eugè, com'è? Arrivi benissimo, io ti arrivo, sì? Voglia, non vuoi muovere, non faccio. Invece scusi a me, mi parli sicuramente. No, comunque a questo non muovi, Non lo senti Antonino? Vero, niente, no, lì lo è un po' in periferia anche lui, ma perché c'è un sacco di propagazione, capito? No, tu sei 9, se no la propagazione è tra il 7 e l'8, quindi riesci a passare bene. Tonino è 9 più, quindi non c'è problema, vi ascolto, però è un casino, boh. Ogni a dire la stessa storia. Qua sei 9 e 5 oggi. Sì, anche qua più o meno. E buono, c'è fatto un po' di cranio, Ma il galassi ancora ce l'hai oggi? No, l'ho venduto, non cosa a fuori. Se lo sapevo. Chi se lo va a fare già? Vabbè, pazienza. Se era graffiata avrei messo i pezzi del mio. Quelle pompone ce l'ha Piero Drago adesso. Ma a proposito, la Piero Drago perché non entra? Si è comprato la radio, chi non entra? Ed è piazzarsi l'antenna. Ah, la Firenze 2 non vuole piazzarla. Altrimenti la boomera, dimmi che non arriva a seguire la boomera, se la arrivi. Ma non è la vita perché adesso? Roba il terzo pettine, quella zona lì. Sì, si arriva, basta girare a chiunque gliela piace, ricordatevi di girare il radialino verso Sassa, già arriva. Non lo sacci. Quella la sta cambiata qualcosa. Sì, Natalino l'ha cambiata. Vediamo un po' come arrivo qua. E magari anche all'ascolto, abbiamo fatto correttiva magari all'ascolto. Io ho fatto la radio, una trofono, uno che mi dura la presa. Ehi, buono vecchio, vecchio cadrotto, ma no, Piero Drago perché ci mi. Sono un secolo che non lo sento. Non lo sento, non lo vedo, ma adesso ha detto che Torino si mette la lanterna, la radio c'ha il gas, a Tornecco, quindi già c'è una bella radio, vediamo un po' se arriva. Non mi piace, ma non mi sente. Sì, ti sento a livello QRM, no Tony, lo senti oggi? A livello QRM è proprio impercepibile come radio, ma che c'è sul cavolo di QRM. Ma deve essere zona negativa forse per tempo il dottore, se ho lì. Senza ombra di dubbio. Quando ci siamo la trentenna mette il palo più alto, però ci sarà più positivo, dai. Infatti, mettendo la trentenna sì. Ma dove sei tutto lì proprio dentro, Canica o un po' verso fuori? No, io sono ritornato dove ero prima. Dove eri prima? Antonio. Antonio, e chi è Antonio? Cioè, scusa, da Vittorio. E io? Che sono contento, l'ho visto da poco. Niente, io ne so un sacco dei traslochi, Ocla. Altro che andare in pensione, mi calmavo, mi preso il travagliente più avanti che prima cadevo il travagliente. No, ma c'è sempre da fare, guarda, io sono un anno che sto sempre facendo, però il mio è il primo traslocco, ma io già era tutto programmato, insomma, che dovevo vendere e andarmi in campagna, questo non era già programmato. Ascolta, ma sei sempre lì o sei andato giù dall'altra parte? No, sono sempre qua dove sei venuto tu. Sempre qua. Ti correggo Claudio, ne ho fatto due traslochi, da via Pascoli al grattacielo, poi da lì di nuovo qua. Sì, hai ragione già, perché quello per me non è stato un trasloco, dai. L'allenamento è rimasto, sono spostato per rifare tutta la casa, pavimenti, porte, bagno e bimbomba. E poi sono rimasto un paio d'anni via Pasqua e sono tornato a Carbonazzi. Però diciamo che i mobili ne abbiamo portato pochi perché era tutta roba nuova, capito? Anche qua, non pensare che ho trasloccato chissà che cosa, ho lasciato tutto lì, la cucina intera da 3,60 m, l'ho lasciata chi ha comprato, tutto l'ingresso che era tutto fatto, mobili a incasso a misura, l'ho lasciato, gli armadi delle camere da letto erano fatti a misura, tutto fatto da tende e falegname, li ho lasciati, ho lasciato un sacco di roba, il bagno, tutto l'allenamento al bagno l'ho lasciato, ho lasciato un sacco di roba, capito, perché qua è tutta roba nuova. Kappa, kappa. andare a chi tocca il Michelino, poi riprendi tu. Comunque qua è tutto cambiato, non è come prima, eh. Adesso dietro io c'ho la strada, metto la macchina mia dietro, hanno fatto la strada proprio per me, hanno fatto. C'ho più visualità, adesso è tutta un'altra cosa, no, è cambiato tutto. Il mio giardinetto è cambiato perché ho fatto quel basamento e ho messo quella casetta della foto che ti ho mandato. Adesso sto andando a tagliarmi l'erba e basta, però sto facendo alcuni lavoretti a una signora di impianti elettrici, quindi come finisco poi mi taglio l'erba qua. Avanti Eugenio, se mi ascolti. Eugenio, riprendi, ti ha rilasciato Tonino. Scusa, non so perché fai il suo buono, magari non si può muovere, ma magari lo stesso più vero, non lo senti l'audio. Non lo senti per niente, per niente, per niente. Sì, sei un tio, ma non fa così cosa al mio problema. Ma Eugenio, se per la Game Master c'hai come antenna? Quello, scusa, in modo esclare, ha preso il rivolto, si fa fallo, niente, non so niente. Magari è stata piazzata meglio, che ne so. Vabbè, purtroppo quando hanno piazzato l'antenna a me, quelle antenne lì non le conosce mai nessuno e sono state piazzate magari male e via, e cosa devi fare? Ma poi la mia zona è proprio ventosa, ma anche la tua, non è oggi a mare, ma già c'è il vento di mare lì. Comunque ne va più forte prima oggi, io so che non mare. Dio ha colto il tuo, gli altri prendono tutti come pieno, le rate, tutti. Comunque magari si fortuna. E te lo ricordi che anche a San Brutigre ce l'ha rotto? No, non è un'antenna a piazzare in quei posti, sia da Gianni che da te oggi, soprattutto da Sandro, ma come l'ha piazzata Natalino anche qua io la potrei mettere perché il vento lo prende, ma non è sforza come voi, capito? E quindi il problema è quello lì. Vabbè, comunque a tutti i dini già, c'è una buonissima antenna, adesso la sacca chissà e si abbiglia il culo. Cosa stavo dicendo, Tony? Non è tanto, no Gianni, non è tanto già i mobili, perché è una fesseria smontare qualcosa e portarla via, portare via il salotto, tavoli, sedie, le basi, queste cose così, capito? Le camere da letto, i letti, i materassi, eccetera. Il problema è mettere dentro le cassette tutta la roba, libri, bicchieri, tovaglie, tovaglioni, cazzi e mazzi, è quella roba che ti gira le balle. Là, io ho fatto 3 traslochi in 4 mesi, non ti dico altro, io ho le balle piene. No, io basta, io ne ho fatto da via Pascoli a Carbonati a via Pascoli, e poi qua diciamo che praticamente nel momento in cui stavano arredando e finendo io mi portavo la roba con la macchina mia, non ne ho fatti altro gioco, diciamo, capito? Come hanno attaccato la luce siamo venuti direttamente a dormire, era già tutto pronto, quindi diciamo che trasloco vero e proprio non ne ho fatto, però è un grande casino, mamma mia. Ma io ho fatto viaggi con la macchina mia, capito? La roba venuta più o meno, ho portato poi la roba grade che non ci stava, niente, motocarro, ho fatto viaggio unico, buonanotte. Sì, io mi sono fatto portare le reti, i materassi e la roba dal fratello di Luca, da Stefano, abbiamo fatto un viaggio, un paio di viaggetti dalla Carbonati al quale vicino e basta, il resto ho fatto tutto io. Vabbè dai, è andata così, è finita e va bene, adesso siamo a posto. Vai genio. Quindi diciamo che non è stato un altro trasloco. Sì, non so le palle, la roba, il vestiario, tutta la roba c'è dentro gli armadi, quelle cose lì che rompo le palle. Per il resto è facile, insomma, poi avevo due amici che tra l'altro anche falegnami, quindi smontavano e piazzavano senza problemi. Tutto qua. Vabbè, avanti già. E ho detto Gigio, se l'ha costruita, fatta costruire lui oppure se l'ha già fatta quella casa lì che c'ha lui? No, cioè questo come tanti che sto letti per mia madre faccio un cammino tu io tutto io davvero piano liscio tutto io. Ah, è sopraelevato, non c'è tutti i due piani, quindi tu c'hai i tuoi genitori sotto, ma chi vuoi inquilini? Tu mio, no, non c'è proprio tutti i miei genitori. Ah, ho capito. Andavi. E vabbè, te l'hai fatta la tele sopraelevato, ho capito, l'hai fatto l'altro piano sopra e andavi. L'hai fatta come hai voluto tu almeno. Sì, è una, io mansarda. Mansarda è mansarda. Tipo c'è un tettino lungo 12 metri e largo 5, quindi c'è la veranda, c'è tutto da giù, c'è tutto lì. Ehi, già va bene. Poi siete in due, non è che siete, avete figli, quindi. Tipo questa qua, oggi, questa però mi sembra più grande. Questa è 180 interni, più c'è la veranda fuori che è 12x4, no 12x3, e poi c'è 200 metri quadri di giardino, mi sembra sia più grande questa. E questa è lo stesso, questa non era finita quando l'ho presa io, era tutta da finire. L'avevano lasciata, l'ho fatto sopra e sotto l'avevano lasciata, infatti quando sono arrivato io c'erano ancora le murature lavorando. Vai Tony. E K, metto il mic perché adesso faccio QRT, caso a carica batterie. È già ora. Ok, se in tal caso ci siete più tardi ci sentiamo. Ciao Eugenio, ciao Gianni e ciao Claudio, alle prossime, ciao. Ciao Tony, ci sentiamo, buona serata. Ciao Tony, alle prossime, vai Eugenio. Ciao Tony, se mi ascolti ci sono più. E già ti ho sentito più, ma ti ho sentito, ciao Eugenio, saluto al Correa, ci sentiamo, ciao. Schiava adesso, ciao Tony, ci sentiamo. Siamo a San Propagazione, già vi sentite, una buona zona, quella dove lui, perché c'è un casino. Ciao Eugenio. Vabbè, come quando mette l'antenna si sentirà meglio ancora. Sì, c'è l'antenna, c'è una mandova, però è capottata, la sta praticamente con l'accordatore, la sta facendo andare perché è stazionaria, capito? L'ha comprata nuova, ce l'ha, è scartolata e la deve piazzare. Oh dai, non mi ero accorto che sono le 8:10. Ciao ragazzi, che vado a iniziare a preparare. Ciao Luigi, piacere averti ascoltato dopo tanto, ciao Gianni, ciao a tutti quelli che sono su 10 in ascolto. A frappè, ciao, qua si chiudo, vai già. Ciao Club, buona carica quando la fai, avanti Luigi. Già ci sentiamo, io come mi libero da lavoro, mi sembra che riesca a entrare più perché se ti veni a tutto mezzo di sera di dietro. No, quindi si blocca, per cui altro bisogna di nuovo porto, quindi niente. Ciao Eugenio. L'altro come fatto sempre, dai. Questa è una macchina nuova, non fa tanto di antenna. Magnifica. Che magnete, nuovo. Vabbè, vedi tu G, era un consiglio, anche io ce l'ho nuova e l'ho messo la base magnetica e quando la voglio usare la metto, poi la tolgo e via, e non si vede più nulla, è molto pratica, esce bene, con la Turbo 2001 una bomba. Perché non ne ho neanche. Ciao Eugenio. Mi è Natalino. Buongiorno. E adesso già riesco a sentirti. Ho piazzato l'antenna, capitolai, Eugi. Anch'io. Sicuro non con 4 watt sono. Sono caduto in disgrazia. C'ho solo 4 watt. Sì, già. Arrivi bene, ti sento bene adesso. Prima non ti capivo quando parlavi in AM, adesso ricevo meglio. Ah, meglio così, ma del disturbo. E anche quello ho risolto. Mi hanno fatto entrare, gli ho aggiustato l'antenna, là. Ah, meglio così, andavo. Benissimo, ok, così devo tranquillamente. Eugenio, io come ti sta arrivando di segnale col 3009 sono, col 3009 è come quello che mi è venuto tu, ma non è quello, eh? 10. Capo. E quello che praticamente mi è venuto tu, me l'ho rivenduto e me l'ho comprato nuovo di Zec, sta proprio, anche se quello era nuovo, ma io sono gubignolo e me lo sono preso proprio nuovo nuovo. Sì, già, è un nuovo ciglia, perché il mio era vicino a me. Facciamo ancora il cerchio nella caccia di io sono uno che ha perché c'è più però ho trovato nuovo al negozio, ma l'ho preso a seconda mano. Feia. Vabbè, io non ho aggiunto molto di più di quello che mi ha dato, quindi mi è convenuto, ho aggiunto 20 euro, me l'ho preso proprio nuovo dalla fabbrica. E il mio era tipo nuovo, del 2006, proprio dagli Stati Uniti. Questo io lo sto usando con il microfono amplificato che ha scoperto Marco Condor adesso ed esce perfettamente, guarda, con questo microfono va molto bene. Saturo. Come sono coricato. Come sei coricato, si è pigiato il tazzino delle lineate. Ciao, ciao, ma così un po'. Come sono l'asino? Marco, io. Buonasera a tutti. No, Gianni mi sembrava saturo più che altro. Non è che sta pompando e non se ne è accorto come succede a me. No, no, Marco, sono liscio. Adesso? Fate i cazzi di... mi fotti. Cioè, io non dico niente, già cioè, se va segnale. Perché già lo sto trattando. Scappa, guarda adesso se la voce è nasina, come detto. Ma so, è perché poi usando niente. Quanti anni si parlo è nasina. Boh. Adesso va bene, quando si dice va bene, chi si sente? È nasina adesso. Forse fai i passaggi più lunghi, oh. Allora, prima ero coricato, sicuramente era nasina perché ero coricato. E quando sono coricato normalmente la voce cambia. Adesso mi sono seduto e voglio sapere se è nasina la voce. È leggermente satura, perché si sente Castino quasi a 9.30. Stai trattando troppo. Va bene. Ma c'è la voce così perché è diventato gay. Poniti a 90 gradi tu. Visto là che sei gay. Appunto anche sono gay. Io sono gay. E gay. Marco, avanti. Non ho voglia, riprende poi e io ascolto. Ciao. Marco Condor invece è cuocuoma, nemi. Hai capito? Che entra solo per sputtanare. E allora, è cuocuoma quel Marco Condor. Già, non ti interessa un DM1000? Un DM1000, che attacco c'ha? E che attacco ha? Ah, lo spiego, lo usavo nel Ma in effetti guarda ce li ho tutti i microfoni amplificati, i microfoni, no, non mi interessa sinceramente, adesso come adesso no. Ce l'ho, è qua, il nuovo appoggiato lì. Lo usavi con questo apparecchio, quindi c'è gli attacchi dei miei. Sì, lo usavo con, come si chiama, il 3009. Il 2009, sì, me li avevano fatti pomponi. Ah, e quanto lo sei dato? Non lo so quanto valga, quanto l'ho pagato? 70 euro. Nuovo nuovo, 40 euro, 35. Ma cosa sei di zente, 70 euro? Il DM1000 costava 30 euro, da giù ho avuto 50 euro, 29,90 costava. Cosa vuoi che gli dia? Ah, ma li fottito. Cosa su internet l'avevo preso? C'è una balla, cazzo, non lo so mai. No, oggi, io ti sto dicendo, ne ho avuto 4.000, lo sanno tutti, DM1000 qua a Sassari l'ho portato io, l'ho avuto io per primo, poi l'hanno preso tutti gli altri. Ne ho avuto 5 o 6, ne ho avuto i quei microfoni. Vabbè, già non mi sta facendo già qua. Ma 70 euro puoi aver pagato, cosa ti posso dire, un diavolo rosso, quello posso crederci, ma DM1000 no. Non ci credere, guarda, aspetta, se metto a cercare dovrei avere ancora la scatola dello scontrino dentro, con l'ansia, praticamente inizia una cosa per un'altra. No, oggi non sto dicendo quello, però io lo so perché ne ho avuto tanto. Evidentemente io ho beccato un negozio, ce l'avevo così e l'ho presa. Perché io cerco la roba, la trovo e me la miglio, e sto a cercare mille siti dove costa 5 euro, 10 euro in meno. Vabbè, raga, io vado a cenare, ci sentiamo, un piacere, ci sentiamo più là. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao, ci sentiamo oggi, ci sentiamo, ciao. Ciao Eugenio. Ciao Giannatari, ti intendimmo, ciao. Ciao Macori. Ciao. Buona cena, buon tutto. Ciao, buona cena, buon tutto, alle prossime. Nacolino, io entro a parlare, là. Non parli, ti faccio parlare con Muromi. Vabbè, Marcolino non ci vuole entrare. Se ne stanno andando tutti e me ne vado pure io, là. Poco fa me ne sono andato perché stavo stampando le ricette. Va bene, ciao a tutti, là, quelli per me. Ciao Natali, ciao Marco, ciao a tutti quanti, dai, corretti anche per me, ciao. Ciao a tu, buonasera a tutti, ciao. Che la dirighetta, ciao. Ciao Cristian, Franco da Sousa. Guarda, la cosa di base è annoiata adesso. Te ne sei andato in giro. E a me sono stato fuori la direzione, perché altro. Allora, già va bene. Ma c'è Franchetto. Sì. Ecco. Peccato che a quest'ora non c'è nessuno. Vabbè, dai, forse non c'è nessuno. Capo. Ah, stai ancora uscendo? Capo, sì. E allora, vai giù, sei aperto, intanto ancora dovrebbe essere aperto, la gelateria, quella roba lì. Che fa? Sì, vabbè, certo che uno che anche da lavoro e cosa, un po' di stress si prende. Guarda, tutto la luce che la siedo, sono a terra, la copertura. Figurati. E allora, va bene. Ok, buon proseguo, Cristian. Ciao.